In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse: Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: Vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse a lui: Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: Come mi conosci? Gli rispose Gesù: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Oggi celebriamo San Bartolomeo. Chi era San Bartolomeo? Era uno degli apostoli, uno dei 12 apostoli, che nei Vangeli sinottici, cioè il Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca, è chiamato Bartolomeo. Nel Vangelo di Giovanni è chiamato Natanaele. Perché questa differenza? Perché un nome è ebraico e l'altro nome è in aramaico. E il nome Bartolomeo vuol dire il figlio dell'agricoltore e Natanaele invece vuol dire dono di Dio. E Filippo trova Natanaele, Filippo era un altro apostolo, e incontra Natanaele e gli dice: Abbiamo trovato il Messia. E però Natanaele era uno studioso della Bibbia e anche uno che la meditava, perché infatti Gesù gli dice che l'aveva visto sotto l'albero del fico, e l'albero del fico era conosciuto in Israele come l'albero della meditazione della parola di Dio. E Natanaele dice: Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Cioè, Natanaele conosceva le scritture e sapeva che il Messia doveva venire da Betlemme e non da Nazareth. Però Filippo allora che cosa gli dice? Vieni e vedi, è inutile che stiamo qui a discutere. E subito Natanaele va e segue Filippo e va a vedere e a conoscere Gesù. E Gesù appena lo vede gli fa un elogio incredibile, un elogio che veramente sarebbe molto bello se ognuno di noi potesse ricevere questo elogio dal Signore. Dice: Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. In questi giorni avevamo parlato dell'ipocrisia dei farisei e degli scribi, che appartiene alle volte anche a tutti noi. Ecco che qui Natanaele è il simbolo proprio della correttezza, della sincerità. Non c'è falsità in lui, quindi non c'è ipocrisia, non c'è doppiezza, non c'è, non ci sono secondi fini, non ci sono raggiri, non c'è duplicità. E questo è un elogio molto bello e vorremmo che alla fine della vita anche a noi il Signore potesse esprimere lo stesso parere su di noi. E ecco una donna senza falsità, ecco un uomo senza falsità. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che essere molto semplici. Vedete, tante volte anche le persone devote, anche le persone che cercano in certo qual modo di essere virtuose, peccano molto in questa mancanza di sincerità. Il mondo va avanti con tante bugie, bugie grandi, piccole, medie, ma anche bugie delle persone devote. E queste bugie in che cosa consistono? Tante volte facciamo capire una cosa per un'altra, tante volte manipoliamo per ottenere quello che vogliamo, facciamo dei raggiri, usiamo dei termini vaghi. E non sempre in maniera appropriata, non sempre perché è necessario non rivelare la verità. Ecco, il fatto di non dire le bugie non vuol dire che sempre dobbiamo dire tutto a tutti, però non possiamo mai dire una cosa per un'altra, mai rinnegare la verità. E allora cerchiamo oggi di concentrarsi su questo, di non avere falsità in noi. E quindi di vedere se magari nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di relazionarci agli altri, prima di tutto se diciamo delle vere e proprie bugie, e tante persone sono talmente abituate a dire le bugie che dicono le bugie per coprire le loro bugie, per coprire le altre bugie, e quindi alla fine non sanno nemmeno qual è la verità, sono confuse loro stesse. Allora, chiediamo al Signore la grazia di essere il più possibile trasparenti, sinceri, cercando sempre di essere corretti e di non voler manipolare, anche se a fin di bene non possiamo mai manipolare le persone. Buona giornata.